ecco vedi stanotte ci si può fare male. Piove così forte, è più che un temporale. In cima a una montagna, lassù non potrà arrivare quell'onda silenziosa che riesce a sollevare. I tuoi sguardi persi e le frasi che sai dire, con i tuoi quadri falsi già pronti da spedire, vedi di non bagnarmi di gocce del tuo pianto, vedi di non toccarmi suono del tuo canto. Da te io mi difendo perché mi perderei. Se andassi fino in fondo guardando gli occhi tuoi, sei così distante. Dove ti dovrei cercare? E sei così presente che non ti so trovare. Sei così lontana che da te c'è ancora luna. Sei così vicina, mentre qui è già domattina. Io resto sul divano, sotto la mia coperta. Lo sai, non mi avvicino, anche se la porta è aperta. Ora perché non parli? Che paura hai? Magari puoi spiegarmi dov'è che te ne vai? Però una cosa è certa, se vuoi ti puoi fermare, se vuoi ti puoi fermare. Qui piove ancora forte. Sì, lo so, adesso devi andare. E non si torna indietro e non riuscirò a capire mi vedi dietro il vetro guardarti ormai partire. Qui piove ancora tanto, non lo so fermare, io non lo so fermare, il fiume del mio pianto che non ti potrà bagnare, il suono del mio canto che non ti saprà toccare.